Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Giunta di Roma, tensione sempre alta dopo le dimissioni respinte dell'assessore Berdini. È una lotta per bande, dice l'ex assessore Muraro. Nel 2016 recuperati 19 miliardi di evasione, record per il gettito. Strizziamo gli occhi agli onesti e non agli evasori, dice il ministro Padoan. Esplosione in una centrale nucleare in Francia e fuori dalla zona a rischio, ma è stato fermato un reattore per precauzione. Inneggiava l'ISIS, bloccato un albanese in Puglia, sarà sottoposto a un programma di recupero socio-spirituale. A Torino, niente acqua immensa ai bambini che portano il panino da casa, è polemica. Sanremo show con Totti, ma gli ascolti sono in calo, più bassi rispetto ad un anno fa, picco con la prima apparizione del calciatore. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it invece, se ci volete scrivere. In apertura ancora le vicende convulse della giunta romana. Per ora le sue dimissioni sono state respinte, ma in Campidoglio sembra tutt'altro che conclusa la bufera scoppiata dopo le parole dell'assessore all'urbanistica Paolo Berdini, che in una conversazione riportata dalla stampa aveva definito la sindaca Raggi inadeguata e circondata da una corte dei miracoli, parole che il diretto interessato ieri ha provato a smentire. Poi, convocato in Campidoglio, Berdini si è scusato e ha rimesso il mandato nelle mani della prima cittadina, che ha deciso di respingere, anche se con riserva, le sue dimissioni. A riaprire il caso poco dopo è arrivata però la diffusione delle registrazioni audio delle sue frasi, che stando alle indiscrezioni avrebbero fatto infuriare la sindaca. Berdini per ora resta comunque al suo posto, anche perché una sua uscita dalla giunta renderebbe più complicata la partita sullo stadio della Roma. Sul fronte dell'inchiesta, sulle nomine in Campidoglio, nel frattempo si è concluso dopo la mezzanotte l'interrogatorio di Salvatore Romeo, durato oltre 5 ore. È andata bene, penso di aver chiarito tutto, ha detto al termine l'ex capo della segreteria politica della sindaca, indagato per la sua promozione con stipendio triplicato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo ai dati diffusi oggi sulle entrate. Il 2016 è stato un anno record per il fisco. La lotta all'evasione ha infatti portato nelle casse dello Stato 19 miliardi di euro, contro i 14,9 recuperati nel 2015. E il gettito delle entrate, secondo le prime stime, ha superato i 450 miliardi rispetto ai 436 del 2015 e ai 419 del 2014. Il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, loda così i risultati dell'Agenzia delle Entrate e spiega che tutto è anche frutto del cambiamento culturale in atto innescato dalle riforme del governo. Un esecutivo, dice il ministro, che non strizza l'occhio agli evasori. Il governo non strizza gli occhi agli evasori. Il governo, casomai, strizza gli occhi ai contribuenti, alle imprese oneste. Li aiuta ad adempiere, a non sbagliare, li invita a correggere eventuali errori, senza un approccio inutilmente punitivo. Padoan rivendica anche i risultati raggiunti contro l'odiosa evasione internazionale, tanto che la voluntary disclosure ha consentito all'Agenzia delle Entrate di incassare 4,1 miliardi e annuncia che al G7 finanziario di Bari, in agenda a maggio, si discuterà anche della tassazione delle nuove forme di impresa nate dall'economia digitale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si torna a parlare di fasce di reperibilità in casa nei giorni di malattia, in forza delle dichiarazioni di poco fa del presidente dell'INPS, Tito Boeri, a margine di un convegno alla Camera. Dovrebbero essere uguali per pubblico e privato ed essere almeno di 7 ore per tutti, dice Boeri. Al momento le fasce di reperibilità, ricordiamo, prevedono 4 ore giornaliere per i lavoratori privati e 7 ore per quelli pubblici. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, oggi in visita in Gran Bretagna, all'indomani del voto parlamentare sulla Brexit. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Un incontro che arriva poche ore dal via libera della Camera dei Comuni alla legge che autorizza il governo di Theresa May ad avviare i negoziati per il divorzio dall'Unione Europea. 494 i favorevoli, 122 i contrari. Ora l'ultimo passaggio del testo alla Camera dei Lord. Fate il vostro dovere patriottico, ha detto a nome del governo il ministro britannico per la Brexit, Davis. E di tempi e condizioni dell'uscita di Londra dall'Unione non si può non parlare nell'incontro in corso in questi minuti a Downing Street tra il primo ministro May e il presidente del Consiglio Gentiloni. Gentiloni, è assolutamente vitale nell'interesse nazionale britannico che l'Unione Europea abbia successo, ha anticipato intanto in un'intervista alla stampa la May: continueremo ad essere partner affidabili e stretti alleati dell'Italia e degli altri paesi europei. Tra un'ora poi, Simone, altro importante incontro, questa volta a Berlino, si vedranno la cancelliera Angela Merkel e il presidente della BCE Draghi. Sul tavolo il tema dell'Europa a due velocità, ipotizzato proprio dalla Merkel. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta. C'è stato un principio di incendio questa mattina intorno alle 10 nella centrale nucleare di Flamanville in Francia. Gli aggiornamenti in diretta con Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Marco, buongiorno innanzitutto, che cosa sappiamo? Sappiamo che poco prima delle 10 questa mattina c'è stato un inizio di incendio in una centralina elettrica della centrale nucleare di Flamanville sulla Manica, dove ci sono due reattori. Si tratta più precisamente di un ventilatore di raffreddamento che si è surriscaldato. L'incendio è stato rapidamente spento dal personale della centrale prima ancora che arrivassero i vigili del fuoco. Per precauzione, come sempre in questi casi, uno dei due reattori della centrale è stato disattivato, è stato scollegato dalla rete. Alle 11 l'allarme è rientrato, le autorità sostengono che non c'è stato comunque mai un rischio nucleare, poiché la centralina elettrica è in realtà in una zona non a contatto con la zona propriamente nucleare del sito. Ti ringrazio, grazie a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, per questo aggiornamento. Quindi, a quanto pare, stando a quanto dicono le autorità, è tutto tranquillo. Veniamo all'Italia, iniziando da una maxi operazione antidroga. 244 persone arrestate in tutta Italia, 128 denunciate, decine di chili di droga sequestrati tra cocaina, eroina e hashish, 600 poliziotti impegnati. Sono i numeri della maxi operazione antidroga della polizia, che ha visto impegnate le 103 squadre mobili di tutta Italia e il servizio centrale operativo della Direzione Centrale Anticrimine. È un intervento a valle che ripulisce le piazze dello spaccio, sottolinea il direttore dello SCO, Renato Cortese. Ci siamo concentrati in modo particolare in pochissimi giorni, intervenendo su tutte le piazze italiane nel ripulirle la presenza di spacciatori che sono particolarmente fastidiosi per i cittadini che soprattutto abitano quei quartieri. Tra la droga sequestrata nell'operazione Pusher, anche 1700 kg di marijuana nascosti a bordo di un rimorchio contenente un carico di frutta. L'ondata di arresti chiude 7 mesi di attività di squadre mobili e commissariati, in cui sono state eseguite 57 operazioni antidroga. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi avevamo dato notizia nei giorni scorsi che il capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina, era intenzionato a rendere delle dichiarazioni nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Ebbene, ci ha ripensato. La notizia, con grande sorpresa di tutti, è arrivata a udienza chiusa proprio mentre la corte stava per lasciare l'aula. È stato a quel punto che Totò Riina, il capo dei capi, ha fatto sapere tramite il suo avvocato Giovanni Anania che è disponibile a rispondere in aula sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Un colpo di scena che non si aspettava proprio nessuno. È la prima volta che il padrino corleonese si sottopone all'esame, da cui nessuno però si aspetta novità sostanziali sul cosiddetto patto tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. E peraltro, tra i 10 imputati del processo, mafiosi pentiti come Giovanni Brusca, Massimo Giancimino, ex politici come Marcello Dell'Utri e Nicola Mancino ed ex ufficiali del ROS dei Carabinieri, solo il capomafia di Corleone ha accettato di rispondere in aula. Non è stato ancora stabilito quando si terrà l'esame. Intanto, il 10 febbraio, l'ex ministro dell'Interno Mancino farà dichiarazioni spontanee. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Sì, abbiamo mandato per errore in onda un servizio un po' vecchio. Come avete sentito, si parla della decisione di Riina di collaborare, un errore nostro. Ebbene, questa mattina la notizia è appunto che Riina ci ha ripensato e non ha risposto ai PM. Chiediamo scusa agli ascoltatori. Andiamo a Pompei adesso, dove è in corso la ricognizione sul progetto Grande Pompei del ministro Franceschini e della commissaria europea. Sta seguendo la visita per noi Laura Vigiano. Laura, buongiorno. Tra l'altro ci sono anche proteste dei sindacati, no? Sì, buongiorno. Infatti la visita del commissario è finita da poco e anche la conferenza stampa, alcune sigle sindacali, la LUNSA e la FLP, continuano una protesta che riguarda essenzialmente la questione praticamente di carenza di personale e alcuni problemi di sicurezza degli uffici della sovrintendenza, insomma, del sito archeologico. E intanto dentro però i rappresentanti del governo italiano e della comunità dell'Unione Europea hanno invece parlato di un enorme lavoro fatto con la seconda fase del grande progetto Pompei, che procede spedita, 61 milioni spesi, tre quarti di Pompei antica messi in sicurezza, numerosi cantieri aperti per il grande progetto. E poi per l'Italia un'altra buona notizia: la lettera è stata consegnata dal commissario Cresu questa mattina al ministro Franceschini, perché i lavori e tempi rispettati, risparmi di gare fatte per i lavori eseguiti in attrattori culturali del Mezzogiorno permetteranno di bloccare altre 150 milioni di risorse, quindi risorse importanti per i siti culturali del Sud Italia. Ascoltiamo anche l'entusiasmo di Franceschini per i risultati di Pompei. Beh, Pompei era un esempio raccontato in modo negativo nel mondo, adesso è, come abbiamo sentito dalle parole del commissario europeo, è non soltanto un luogo in cui si sono rispettati i tempi e regole dell'Unione Europea, ma è anche il simbolo di una storia di riscatto. Mi pare un giudizio molto importante di cui tutti noi italiani possiamo e dobbiamo essere molto orgogliosi. Grazie dunque a Laura Vigiano per questo aggiornamento da Pompei. Ci occupiamo del Papa, che interviene oggi parlando anche di corruzione. Non prendo tranquillanti. Per vivere in pace ci vuole un sano menefreghismo. A Buenos Aires ero più ansioso. Ho avuto un'esperienza molto particolare di pace profonda dal momento in cui sono stato eletto e non mi lascia più. Vivo in pace. Non so spiegare. Così Papa Francesco nel colloquio con i superiori degli ordini religiosi, che sarà pubblicato nel numero 4000 della Civiltà Cattolica e di cui il Corriere della Sera anticipa oggi alcuni stralci. Tanti temi toccati dal pontefice, anche quello della corruzione in Vaticano, nonostante la quale sostiene di vivere in pace. Sul rinnovamento delle strutture della Chiesa, nelle quali entra il clima mondano e principesco, Francesco dice che i religiosi possono contribuire a distruggere questo clima nefasto. Il Papa affronta poi anche la spinosa questione degli abusi sessuali. Se sono coinvolti preti o religiosi, è chiaro che è in azione la presenza del diavolo, che rovina l'opera di Gesù. Ma parliamoci chiaro, questa è una malattia, ribadisce Bergoglio. Dobbiamo esserne convinti per risolvere bene il problema. Mai accettare aspiranti sacerdoti respinti da altri seminari o istituti senza chiedere informazioni sulle ragioni del loro allontanamento e senza accertarsi della loro adeguata maturità affettiva. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sanremo, sono stati 10.367.000, pari al 46,6% di share, i telespettatori che hanno seguito la seconda serata del festival. Nel 2016 la media era più alta, era stata di 10.748.000 spettatori, pari al 49,91%, quindi quasi il 50%. Ascolti dunque in calo, picco di ascolto con l'arrivo di Francesco Totti sul palco tra battute volontarie e battute involontarie. Sentiamo. Michele, bravi. Bravo. Bravo. Codice 06 di Chopé. Chopé? Cheope. Cheope. Chopé. No, è Cheope. Cheope. Abate Anastasi, il diario degli errori. Dirige orchestra il maestro Enzo Compagnoli. Campagnoli. C'è la luce, non si vede bene. Ho capito, ma è Campagnoli. Campagnoli. Ciao Campagnoli. E poi del Festival di Sanremo torneremo a parlare più tardi, lo faremo con la nostra inviata Marta Cagnola. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, come sempre per il traffico, e poi ritorniamo con il nostro giro per l'Italia. Andremo a Spoleto, c'è stato un terremoto piuttosto forte questa mattina tra Spoleto e Terni, ci faremo raccontare dal sindaco come stanno andando le cose, e poi ci occuperemo di questa vicenda di un albanese arrestato, fermato perché inneggiava all'ISIS, sarà sottoposto ad una sorta di rieducazione. Vedremo di capire di cosa si tratta. Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della Giunta di Roma, dei dati sull'evasione diffusi oggi, dell'esplosione in una centrale nucleare in Francia, di una maxi operazione antidroga in tutta Italia e poi siamo andati anche a Pompei. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo dalle notizie di cronaca di queste ore che ci parlano di un nuovo terremoto che ha colpito l'Umbria, questa volta tra Spoleto e Terni. Spoleto, tra l'altro, è già colpita piuttosto duramente e anche in alcune frazioni in particolare dai terremoti che ci sono stati in ottobre e poi in gennaio. Fabrizio Cardarelli ne è il sindaco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, che cosa sappiamo da oggi, dal sisma di oggi? Ma diciamo che sto recandomi sul posto adesso e abbiamo notizie di qualche danno alle abitazioni, non ci sono, almeno non ci risulta, né feriti né nessun danno collaterale alle persone. Ecco, quindi andiamo, stiamo recandoci, probabilmente c'è qualche crollo di qualche tetto, magari di qualche casa un po' vetusta, ma non credo che siano notizie particolarmente gravi. E questa è una fortuna. Detto ciò, sindaco, voi siete rimasti, per così dire, un po' dimenticati, no? Nell'ambito di un sisma che ha colpito un'ampia fascia di questo paese e ha colpito molto duramente alcuni luoghi, in particolare in Umbria, come Norcia. Sì. Detto ciò, sì, i danni ci sono stati anche a Spoleto, insomma, no? Eh sì, ci sono danni, le immagini che abbiamo, quasi 700-800 persone, 900 persone sfollate, per cui non sono danni trascurabili, immagini che saranno minimo 300-400 famiglie che sono state costrette a lasciare la propria abitazione. Dove sono ospitate adesso, sindaco? Sono ospitate una parte nella cosiddetta autonoma sistemazione, cioè in case agibili che si reperiscono sul mercato degli affitti, e parte sono ancora assistite negli alberghi. E per quanto riguarda, come dire, i lavori per iniziare a rimettere a posto, iniziare a lavorare, a che punto siete? Guardi, noi abbiamo fatto la messa in sicurezza di due o tre vie e abbiamo preso noi come comune l'iniziativa senza servirci delle strutture specializzate dei vigili del fuoco, perché capiamo che l'emergenza è talmente vasta e una concentrazione molto elevata di operatori dei vigili del fuoco su nelle zone Norcia, Cascia, probabilmente rende molto difficile farli intervenire anche qui da noi. Quindi abbiamo dato in appalto a diverse ditte la messa in sicurezza, per cui stiamo ancora procedendo con questi lavori. Bisogna accelerare il più possibile però la predisposizione delle ordinanze che ci consentiranno di poter intervenire sul patrimonio artistico, perché noi abbiamo il sito UNESCO inagibile in questo momento, abbiamo un teatro inagibile, per cui abbiamo necessità assoluta di avere le disposizioni e i finanziamenti per poter ripartire. Premeremo anche per questo, grazie a Fabrizio Cardarelli, sindaco di Spoleto. Eccoci qua, allora andiamo a Bari adesso, o nel Barese. La vicenda è quella di un operaio di 35 anni, di origine albanese, inizia a scrivere una serie di post inneggianti agli attentati terroristici, condivide online immagini e video di azioni terroristiche dell'ISIS, viene beccato, viene arrestato e che cosa succede? Il giudice decide di sottoporlo a una sorta di recupero socio-spirituale, una sorta di rieducazione. Questa rieducazione deve avvenire tramite un imam moderato. Noi siamo in linea con Izzedine Elzir, che è il presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, ed è anche l'imam di Firenze. Buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Allora, ma come funziona una cosa di questo genere? Cioè, che cos'è una rieducazione socio-spirituale? Realmente metterlo a confrontarsi con un imam che conosce la fede islamica in maniera profonda, che questo imam può dare un contributo a far uscire, a rieducare la persona che ha sposato il pensiero estremista, facendo un processo non è facile, ma normalmente porta ai risultati positivi. Ma perciò è una cosa positiva. Che le risulti? Ci sono precedenti di questo tipo? In altri paesi europei e in particolare negli Stati Uniti, in Canada e in Australia ci sono degli esempi molto positivi, ma anche i paesi arabi. Basta ricordare in Egitto diversi anni fa il movimento jihad islamica dentro il carcere egiziano hanno avuto dei diciamo questo tipo di rieducazione che hanno portato loro a scrivere libri contro il loro pensiero. Perciò è un lavoro che è già stato svolto e per la prima volta nel nostro paese questo credo è una svolta veramente molto interessante. Sì, è una svolta interessante e c'è chi dice, qualche ascoltatore come potrà immaginare, il Sir ci dice ma perché, scusa, uno così prendi e lo espelli oppure lo sbatti in galera, insomma non è che ci sono, no? Questo è il giudice, non sono io, l'ordinamento giuridico non è no, che... No, però dico, lei comprende, no, che quale sia la valutazione di qualche ascoltatore, insomma, no? Ma certamente la libertà d'espressione è, grazie a Dio, che è garantita nel nostro paese. E poi, detto questo, abbiamo l'ordinamento giuridico e il giudice deve rispondere a quello, non è che deve rispondere alla pancia delle persone. Giustamente. Se no sarebbe la giungla. Senta una cosa, Elzir, ci dice qualche ascoltatore, lei probabilmente lo saprà o forse non lo sa perché, come dire, non è sul luogo. Ma chi lo paga questo corso di rieducazione? In realtà non credo che lo paghi lo Stato, no? Immagino che ci siano volontari. Noi, tutto quello che abbiamo fatto abbiamo pagato dalla nostra tasca perché crediamo è un contributo da parte della comunità islamica verso questi nostri fedeli stessi ma anche il nostro paese. Detto questo, ma questo verifica il giudice, verifica lo Stato, non lo so. Allora la ringrazio, grazie Izzedine Elzir per essere stato con noi, che è il presidente Lukoil, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia. Solo una piccola nota prima di passare al prossimo luogo, al prossimo argomento. Ci scrive un ascoltatore dall'Umbria e sappia che abbiamo ben presente questo problema, tanto per quanto riguarda l'Umbria, quanto per le Marche, quanto per l'Abruzzo. Ci scrive: le strutture ricettive, tra cui la mia, stanno avendo cali di prenotazioni per la prossima estate di circa il 40%. E questo sarà il grande problema da affrontare per tutta quell'area del centro Italia. Promesso che ce ne occuperemo e continueremo ad occuparcene. Ci spostiamo a Torino, la famosa vicenda del panino al posto della mensa, insomma, i bambini che si vogliono portare il panino a scuola invece di mangiare alla mensa, un po' perché costa troppo, un po' perché per scelta alimentare, perché magari la mensa è cattiva e non gli piace. Come sapete, la cosa ha suscitato un grandissimo dibattito all'inizio dell'anno in seguito ad una sentenza che proprio a Torino ha deciso che le famiglie lo possono fare. Che cosa succede adesso? Succede che si è deciso che i bambini che vanno a scuola e si portano il panino non possono avere l'acqua, si devono portare pure quella da casa. Federica Patti è l'assessore competente del comune di Torino, assessore alla città educativa, materie relative all'istruzione e all'edilizia scolastica e via dicendo. Assessore, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, ma nemmeno un bicchiere... Smentisco categoricamente che non venga data acqua, assolutamente. Io ho mandato anche un comunicato ieri che evidentemente non è arrivato nelle redazioni. Il concetto è questo: chi fa parte della refezione scolastica e collettiva si trova sui tavoli destinati alla refezione scolastica la caraffa sanificata dall'azienda ristoratrice con dentro dell'acqua. Tutti gli altri bambini che in realtà stanno su tavoli destinati alla refezione, diciamo, privata, quindi al passo da casa, nel momento in cui hanno sete chiedono l'acqua e questa gli viene data. Sì. Questa è la differenza. Quindi e nessuno gli altri... nega l'acqua e ci mancherebbe. Se i bambini col panino chiedono l'acqua, gliela danno oppure no? Non ho ma capito. Certo. Ah, ok, quindi non c'è problema da questo. Senta, ma mi hanno detto un'altra cosa. Poi non sono in ogni singola scuola, non posso sapere che cosa succede nel momento in cui ci può essere un singolo che agisce in maniera differente, ma questo sta da un'altra parte, su un altro livello, e può succedere sulla mensa, come a scuola, come nell'ora di italiano. Ma l'acqua non viene negata a nessuno, ma questo non capisco neanche come possa essere venuto fuori. Ecco. Beh, è venuto fuori da questo emendamento presentato al capogruppo della Lega Nord, Fabrizio Ricca. Io non ero presente in consiglio. Ah, non era presente, in consiglio e quindi non è a conoscenza dei fatti di questa, storia qua. No, sono a conoscenza dei fatti, non ero presente in consiglio perché ero a Roma, esattamente come oggi, tra l'altro a parlare di decreti delegati, tra cui quello del diritto allo studio, in cui è ricompresa anche la mensa scolastica come argomento sulle quali discutere. So che c'è stato questo emendamento, ma da quanto mi è stato riportato e che ho letto, perché sono ancora a Roma, il fatto è che è stato un emendamento strumentale. Ora non entro nel merito perché non essendo lì e non avendo avuto un confronto in questo momento diretto con i consiglieri non esprimo nessun giudizio, ovviamente. Mi dice un'ultima cosa, assessore, questo veramente è una curiosità. Ci hanno detto che i bambini che si portano il panino da casa e magari anche la frutta da casa devono riportarsi i rifiuti a casa, è vera questa cosa? Che io sappia no. Che lei sappiano, perché i genitori sostengono questo, cioè che quindi non so, hai il mandarino, te lo sbucci, te lo mangi e poi non puoi buttare i rifiuti là per questioni igienico-sanitarie. Cioè, immaginiamoci una situazione pratica: c'è un bambino che mangia sporca e la maestra gli dice rimettiti i rifiuti dentro la cartella. Non lo so, per carità, insomma, anche a me sembrerebbe assurdo. Insomma, se fossi un maestro, un professore, insomma, sarebbe veramente curioso. Dobbiamo stare attenti a non scendere, come dire, nel grottesco. Ma proprio perché la cosa ci sembrava grottesca che l'abbiamo chiamata, insomma, non è un caso. Grazie Federica. Ma io sono anche contenta di poter rettificare questa notizia, che quando ho letto francamente mi ha lasciato, come dire, sorpresa. Vabbè, non verranno lasciati a disidratarsi i bambini che portano il panino da scuola. Grazie Federica Patti. Non saranno sommersi dall'immondizia né disidratati. Trattati e sono trattati come tutti gli altri bambini, e ci mancherebbe pure. Grazie Federica Patti, assessore alla scuola del comune di Torino, e torneremo a Torino subito dopo la borsa per parlare col procuratore di Torino Armando Spataro per una cosa che è un po' più larga e in realtà riguarda tutta Italia e riguarda il tema del segreto delle indagini giudiziarie. È una questione un po' complessa, ma che potrebbe mettere seriamente a rischio una serie di indagini, e Spataro ha sollevato il problema, parleremo con lui e poi un attimo di leggerezza, andremo a Sanremo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli: giunta di Roma, tensione sempre alta dopo le dimissioni respinte dell'assessore Berdini, è una lotta per bande, dice l'ex assessore Muraro. Nel 2016 recuperati 19 miliardi di evasione, record per il gettito, strizziamo gli occhi agli onesti e non agli evasori, dice il ministro Padoan. Esplosione in una centrale nucleare in Francia, è fuori dalla zona a rischio ma è stato fermato un reattore per precauzione. Inneggiava l'ISIS, è bloccato un albanese in Puglia, sarà sottoposto a un programma di recupero socio-spirituale, di deradicalizzazione. Sanremo, lo show con Totti, ma gli ascolti sono in calo, più bassi rispetto ad un anno fa, picco con la prima apparizione del calciatore. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. C'è una protesta, per così dire, che sta partendo dalla magistratura e che riguarda un decreto del 2016 firmato dal capo della polizia Gabrielli, un ordine sostanzialmente, un decreto legislativo meglio, che riguarda la polizia. Cerco di semplificarvelo al massimo livello perché la questione è complessa ma è estremamente importante. In questa disposizione di legge sostanzialmente si impone ai poliziotti, alle polizie, la possibilità di trasmettere ai capi e quindi anche ai responsabili politici i rapporti con le notizie di reato. Risalendo per la scala gerarchica, che cosa vuol dire? Che se io sono un procuratore e sto indagando su un caso di corruzione che riguarda un politico, è facile che il politico lo venga a sapere esattamente tramite questi rapporti diffusi dalla polizia. A sollevare il problema è stata, tra gli altri, la Procura di Torino. Abbiamo in linea il procuratore Armando Spataro. Buongiorno procuratore, benvenuto. Buongiorno, posso subito fare due piccole precisazioni? Sì. Non è una protesta quella che è oggetto delle mie direttive. Ho detto per così dire, in effetti. Certo, ma e poi mi permette ancora, ovviamente il capo della polizia ha emesso una circolare conseguente a un decreto legislativo che è approvato dal Parlamento. Mi scusi, è una precisazione sì, tecnica. Sì, sì, no, per carità, però il rischio che ho evocato concretamente potrebbe essere quello in sostanza. Sicuramente, perché come dire, questo decreto legislativo dell'agosto del 2016 che poi riguarda la riorganizzazione delle forze di polizia col passaggio dalla forestale nell'arma dei carabinieri contiene una precisazione in qualche modo anomala anche rispetto all'oggetto del provvedimento, perché appunto si autorizzano i vertici delle forze di polizia ad adottare istruzioni per cui i responsabili dei presidi di polizia che compiono le indagini sono tenuti a inviare notizia delle informative di reato a loro volta trasmesse all'autorità giudiziaria. Ora, questo ovviamente nella gran parte dei casi non può creare problemi, ci sono tante indagini che nascono da arresti, perquisizioni, eccetera, da reati in flagranza, però vi può essere una percentuale, magari minima, di indagini che riguardano reati delicatissimi per il loro contenuto, per la qualità degli indagati, vale a dire indagini che il pubblico ministero non intende svelare ad alcuno, e siccome il pubblico ministero per Costituzione e per codice di procedura penale è l'autorità giudiziaria che dirige le indagini e che è responsabile del coordinamento investigativo e si comprende come il pubblico ministero può, deve addirittura vietare un inoltro che dal suo punto di vista potrebbe compromettere la segretezza. Sì, potrebbe compromettere la segretezza nella chiave che diciamo noi, no, appunto, se l'indagine è particolarmente delicata, mettiamo che riguardi un alto esponente politico, ma anche governativo, per esempio, la scala gerarchica conduce dei poliziotti conduce direttamente al ministro dell'interno sostanzialmente, no? Ma guardi, però non se ne io faccio il magistrato, io non parlo di indagine che riguardi il politico o l'esponente del governo, io parlo di indagini delicatissime che possono ad esempio riguardare rapporti internazionali, fatti di terrorismo, diciamo che non è catalogabile a priori ciò che è oggetto di segreto, lo decide il pubblico ministero di volta in volta, quindi di volta in volta può capitare che il pubblico ministero dica questa notizia non può andare al di fuori del circuito investigativo concreto. Ecco perché noi prevediamo che i magistrati delle procure, dico noi perché tutte le procure del Piemonte hanno adottato questa scelta, tutti i sostituti procuratori comunicano ai dirigenti, cioè ai procuratori, quei casi in cui a loro avviso il segreto è tale a norma del codice di procedura penale che non può consentire l'inoltro di questa informativa per le scale gerarchiche. A questo punto toccherà al procuratore stabilire e comunicare ai vertici locali che indagano che quella norma non può essere in quel modo applicata. Non tutte le procure l'hanno fatto, però mi sembra di aver capito. Cioè in Piemonte sì, però non tutte le procure l'hanno fatto. Ma guardi, io credo che no, siamo stati sicuramente i primi a farlo in Italia, però può darsi anche che questo provvedimento sia oggetto di riflessione. Ognuno si regola ovviamente secondo i propri orientamenti, non abbiamo una regola per cui ciò che è fattizio deve essere fatto da Caio Sempronio. Certamente è una questione sul piano giuridico delicata da valutare, tengo anche a dire che sarebbe anche sbagliato interpretarla, che so, come una sorta di prova di sfiducia nei confronti delle forze dell'ordine, per nulla, proprio perché io personalmente sono cresciuto nel quadro di una leale collaborazione con le forze di polizia, ma addirittura è una norma che può rendere più virtuosa l'indagine, perché può servire anche, come dire, da legittimazione al segreto, evitare conflitti teorici di interessi, e quindi io sono convinto che anzi risponda a un'esigenza di rispetto reciproco delle competenze. La ringrazio, grazie Armando Spataro per essere stato con noi, buona giornata. Anche a voi. E noi per chiudere un attimo di leggerezza in più e andiamo. Ci siamo, no? Ci siamo? No. Inevitabile, no? Inevitabile, sigletta inevitabile. Marta Cagnola, ciao, nostra inviata a Sanremo. Non sei pronto per il palco dell'Ariston? Ma no, guarda, ma figurati. Perché prima ce l'ho. Sono stacco. A malapena pronto per il microfono di Radio 24. Allora, so che ieri sera ti è particolarmente piaciuto l'abito di Rage che adotterai per la prossima settimana. Ti voglio già così, io torno a Milano, ti voglio vedere veramente atroce. Io qui conosco i tuoi gusti, appena l'ho visto ho detto questo, è per Simone Spezia. Allora, ieri sera, vabbè, è andata bene, 10.360.000. Chissà il nostro Oscar, magari chissà il nostro Oscar Giannino con quel completo, vabbè. Diciamo, no, però guarda che comunque ci potrebbe stare. Più sobrio, okay? È diventato più sobrio, Oscar, è vero. Non lo è so, vero. Non lo senti, so. Allora, gli ascolti saranno il tema di discussione di oggi sicuramente, perché sì, è andata peggio anche dell'anno scorso, però ormai lo sappiamo, il calo fisiologico della seconda puntata, sì, un filino peggio, però devo dire che alla fine è il secondo miglior risultato dal 2005, ha detto il direttore di Rai 1 Andrea Fabiano. Insomma, alla fine diciamo che per un 46,6% non è che ci si deve disperare, è comunque un risultato veramente, veramente ottimo. Si comincia in conferenza stampa a chiedere chi farà Sanremo l'anno prossimo. Conti ha detto sarà sicuramente in ottime mani, potrebbero rifarlo Fazio Bonolis o magari farlo per la prima volta Frizzi, Scotti, Timperi, Giletti e Fiorello, però poi ha detto no, però ha citato solo i maschi. Grande, non ha citato me perché citato vabbè, ovvio, grande rosa di nomi. Senti, stasera cosa ci attende? Allora, questa sera ci attendono le cover, 16 cover, quelli che hanno sicuramente passato il turno, poi il piccolo coro dell'Antoniano, Mica, LP, gli strumenti riciclati del Paraguay, che sono una cosa molto, molto carina, poi Gassman, Giallini, le due eredi Delon e Belmondo, l'ostetrica che ha 92 anni, ha fatto nascere 7.642 bambini e poi Luca e Paolo, oltre ovviamente a Crozza. Oltre ovviamente a Crozza, ieri un po' meno incisivo, più incisivo Totti mi sembra, Beh, senti, allora, di la verità, quanto ti sei divertito? Molto, molto, molto, oggettivamente, e mi pare anche il pubblico, perché poi alla fine è stato il picco d'ascolto. È stato il piccolo ascolto, è stata una rivelazione. Non so se abbiamo il tempo di ascoltare anche quello che ha detto Michele Bravi, perché Michele Bravi no, non Marta, ce l'abbiamo. Allora, vi rimando al sito di Radio 24, perché ha raccontato quello che è successo mentre presentava la sua canzone. Quindi lo ascoltate sul sito, perché ci siamo divertiti molto a farcelo raccontare da Michele, che era lì. Chopin era lui. Chopin. Grazie Marta Cagnola. Grazie, ciao, grazie, Simone, ciao, buon lavoro. Ciao, traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.